L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, siamo tornati a trovare un'azienda questa settimana, un'azienda della provincia italiana, di quelle che testimoniano perché questo paese, nonostante tutto, è ancora a galla, perché ci sono buone idee e voglia di sperimentare. Siamo andati a visitarla in origine perché, attratti dalle caratteristiche di risparmio energetico e sostenibilità della sede che questa azienda occupa da qualche mese ormai, una sede che verrà poi più che raddoppiata nel corso del 2014. Ma in quell'occasione abbiamo scoperto anche altre interessanti caratteristiche di sostenibilità lavorativa, chiamiamola così, caratteristiche che speriamo possano essere di ispirazione o comunque motivo di riflessione anche per altri. L'azienda in questione si chiama 7 Pixel, ha sede a Giussago, che è un piccolo centro della campagna tra Pavia e Milano, dove sono molte più le aziende agricole che quelle di altro genere, ma appunto grazie alla breve distanza da Milano nulla è impossibile. Tanto più che 7 Pixel lavora su internet e quindi può scegliere di installarsi ovunque, purché ci sia una connessione. Che cosa fa esattamente 7 Pixel? Ce lo spiega uno dei 5 soci fondatori, Paolo Cereda. 7 Pixel è un'azienda prevalentemente che si occupa di internet. Allora, intanto nasce nel 2002, 5 amici con un piccolo fondo ottenuto dalla BCC, la banca Credito Cooperativo di Binasco, che avevano appunto desiderio di fare un qualcosa innanzitutto insieme, qualcosa che fosse possibilmente piacevole, creare un ambiente sostanzialmente piacevole per lavorare senza stress e quant'altro. Infatti tutti noi arrivavamo dalle esperienze più disparate, chi lavorava in una compagnia aerea, chi in una software house, chi ricercatore al CNR e chi invece faceva solo meramente volontariato. Ecco, così è nata nel 2002, pian pianino si è espansa. Inizialmente ci si sosteneva intanto creando il portale della BCC locale e poi dando assistenza a piccole aziende locali della zona, fino a che non siamo riusciti appunto a sviluppare il Trova Prezzi, sostanzialmente questo portale di comparazione prezzi che permette di fare acquisti online, ed arrivare ormai ai giorni d'oggi con un'azienda strutturata con circa 110 dipendenti e tutto ciò che ne consegue. Una sede molto particolare che magari descriviamo. L'edificio che 7 Pixel occupa dal 2013 sembra la classica cascina lombarda e per questo non disturba nel panorama della zona, ma è invece un edificio totalmente nuovo. Sentiamo la spiegazione di un altro dei soci fondatori, Nicola Lamberti. Ricorda la cascina lombarda e sia nell'interno ma che anche nella forma esterna si è voluto inserire qualcosa di più moderno. Intanto il vetro, no? E la luce. La luce perché appunto in un ambiente di lavoro la componente anche della luce che entra è effettivamente molto importante per le persone che lavorano. E quindi abbiamo fatto tutta una vetrata, tutta una parete che è una vetrata, che permette un forte afflusso di luce. Questi vetri sono stati fatti con la massima attenzione allo scambio termico, quindi sono tripli vetri molto spessi che garantiscono un coefficiente di scambio molto basso, che ci ha permesso comunque di mantenere la classe A, la classe energetica A, pur avendo una grossa vetrata che ha comunque l'innegabile vantaggio di portare dentro tanta luce. Il tetto è fatto tutto in legno e anche il legno rappresenta il miglior isolante che abbiamo, oltre che dare un impatto anche di calore così visivo alle persone che poi lavorano. Gli impianti abbiamo cercato di fare il riscaldamento a pavimento e abbiamo fatto anche un mix brevettato, in realtà senza nessun brevetto, ma fatto qui forse per la prima volta, cercando di creare delle dorsali con pavimento galleggiante, che aveva l'innegabile vantaggio di poter gestire in maniera molto più flessibile tutta l'impiantistica elettrica e dati. E però aveva lo svantaggio di non generare e di non fruire nella maniera più corretta possibile il riscaldamento radiante, quello da pavimento. Qual è il vantaggio del riscaldamento radiante? È che noi possiamo mandare acqua a relativamente bassa temperatura, non i 70 gradi che ci vogliono per un termosifone, ma i 38 gradi che bastano per 35-38 gradi che bastano per l'acqua fatta sul pavimento, e scaldare l'acqua con 30 gradi in meno costa molto meno. E l'efficienza anche, e anche la sensazione è molto migliore, che non ci sono aree molto calde e secche, ma c'è una sensazione di calore molto più distribuita e molto più diffusa, sia per il caldo che per il freddo. Quindi abbiamo scelto questa opzione, mitigandola con questa dorsale mobile, in modo da avere la flessibilità del pavimento galleggiante e la flessibilità del pavimento galleggiante e invece il vantaggio del riscaldamento radiante. Fin qui i requisiti di sostenibilità importanti dell'edificio che Nicola Lamberti ha espressamente voluto che fossero realizzati. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio, siamo a Giussago, oggi vi ricordo un piccolo centro della provincia di Pavia, verso nord, verso Milano, qui ha sede 7 Pixel, azienda che tra l'altro è proprietaria di Trova Prezzi, un comparatore di prezzi e prodotti online in cui tutti più o meno ci siamo imbattuti facendo una ricerca su internet. 7 Pixel ha recentemente inaugurato una sede con particolari requisiti di ecosostenibilità di cui abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione. Ora con Nicola Lamberti e Paolo Cereda, che sono due dei 5 soci fondatori dell'azienda e che ci hanno guidato in questa visita, scopriremo altre e diverse iniziative di sostenibilità introdotte. Ci paiono iniziative lodevoli, perlomeno perché ci sono, perché c'è stato un tentativo di venire incontro alle esigenze, ai desideri di chi lavora lì. Saranno perfettibili queste iniziative, saranno quel che si vuole, ma sono sperimentazioni che non in tutte le aziende si fanno. Come diceva Paolo prima, effettivamente siamo partiti con l'idea di dire questa realtà deve essere una realtà che inizialmente eravamo in pochi, eravamo noi 5 amici, e l'obiettivo era quello di lavorare in un posto che potesse garantire il sostentamento delle nostre famiglie, ma che al contempo potesse generare e potessimo trovarci in un ambiente di lavoro sereno e felice, perché era parecchio il tempo che dedicavamo al lavoro. Con la crescita dell'azienda e quindi con l'aumento del numero di dipendenti e di collaboratori, di persone che comunque lavoravano insieme a noi a questo progetto, questa idea iniziale si è poi trasformata in un'idea un po' più generale, che abbiamo anche forse assunto la consapevolezza della responsabilità che ci trovavamo ad avere. E la responsabilità che sentivamo era quella di riuscire e di cercare di lavorare per generare non solo lavoro, ma un lavoro di qualità, cioè fare in modo che non solo per noi, ma anche per tutte le persone che poi dopo insieme a noi lavoravano a questo progetto, si potesse avere potessero ritrovarsi in un ambiente di lavoro sereno. Quello che abbiamo notato è che anche il rendimento in un ambiente di lavoro del genere è notevolmente superiore. E la cosa poi più singolare è che molte di queste attenzioni che poi abbiamo avuto nel tempo sono attenzioni economicamente semplicissime da raggiungere, nel senso che economicamente poco costose e in alcuni casi anche per nulla costose. Possiamo fare qualche esempio magari per chiarire l'idea di queste attenzioni? All'inizio l'obiettivo era tutto puntato un po' sull'ambiente, quindi intanto nella metodologia del lavoro, nella metodologia di lavoro, nella flessibilità degli orari, nella gestione anche flessibile delle scadenze e nel caso per esempio della programmazione, nel cercare di attuare tutte quelle metodologie che facilitassero lo scambio di informazioni tra le persone, la crescita professionale e anche appunto il conseguimento di un buon rapporto anche all'interno dell'ambiente. Poi crescendo abbiamo avuto l'opportunità e la possibilità di costruire finalmente quello che era il nostro sogno, cioè quindi un ambiente di lavoro anche fisicamente, quindi un ufficio in un terreno nuovo che potesse avere il rispetto sia dell'ambiente Quindi abbiamo cercato di creare un ufficio con lo stile della cascina lombarda, e immerso in un'area verde di mista bosco e prato, con un canale d'acqua attorno che doveva appunto facilitare l'ingresso e l'arrivo di uccelli che si potessero sentire protetti dal percorso d'acqua attorno, con un laghetto e delle canoe per poter utilizzarlo anche noi che appunto lavoravamo qua dentro, e con gli spazi anche sportivi e di gioco come campetti da calcio, tennis, pallavolo e basket, e con qualche spazio al chiuso come la palestra, il ping pong e via dicendo, e poi con un'attenzione appunto particolare all'ambiente, sia nella tipologia di costruzione che nella pannelli solari fotovoltaici, quindi nella ecosostenibilità di questo impianto, sia nella produzione di energia che nel consumo. L'edificio è fatto in classe A per poter garantire, no, il meno consumo possibile e nel contempo la produzione, quindi con i pannelli. E poi abbiamo cercato di mettere in atto alcune cose, anche lì poco costose, ma poi apprezzate, tipo legate all'ecosostenibilità e l'incentivare l'uso delle macchine a metano, istituendo un distributore di metano gratuito in azienda, e quindi tutti coloro che hanno una macchina a metano possono fare il pieno gratuito. E abbiamo appunto installato il distributore. Dopodiché tutti coloro che si ritrovano in un raggio abbastanza vicino all'ufficio e durante il periodo estivo e primaverile possono permettersi di lasciare a casa la macchina, e viene dato in comodato d'uso gratuito a tutte queste persone una bici a pedalata assistita, in modo da lasciare a casa la macchina e utilizzare la bicicletta per gli spostamenti. Questo ha notevoli vantaggi anche durante il percorso, e quindi un gruppo di persone insieme possono fare il percorso nel venire a lavorare, perché la maggior parte delle persone arrivano poi da Pavia. E ci siamo resi conto, per esempio, poi cammin facendo, anche dalle sollecitazioni dei collaboratori stessi, che alcune esigenze, tipo la copertura dei costi di un asilo nido. Abbiamo visto che la società poteva coprire dei costi per asili nidi, e abbiamo attivato questo accordo per cui la società rimborsa parzialmente la retta, fino a 200 euro al mese, la retta degli asili nidi dei dipendenti. Ci siamo resi conto che, per esempio, durante il periodo di vacanza da scuola, e quindi soprattutto per i bambini un po' più grandi, però non vacanza per il lavoro, le famiglie si ritrovavano in difficoltà, soprattutto quando il periodo non era ben coperto da centri estivi o invernali esterni. E abbiamo fatto questo esperimento durante il periodo invernale di gestire una sorta di centro invernale all'interno della Sette Pixie. Il vantaggio di questo era non solo la risoluzione del problema, ma anche l'opportunità che si aveva di portare il proprio figlio nel proprio ambiente di lavoro, avere la possibilità alla fine, durante il pranzo, di pranzare insieme, e anche per il figlio, la figlia, il fatto di vedere il proprio genitore nel proprio ambiente di lavoro, saperlo vicino, era una cosa che generava tranquillità in entrambi i casi. È stata un'esperienza positiva che contiamo di ripetere poi anche durante il periodo estivo. E quindi tutte queste iniziative, che comunque hanno un costo per l'azienda, comunque, diciamo così, valgono la candela, si riescono a fare con un beneficio e senza una perdita economica consistente o comunque non sostenibile. E questa è la cosa di cui ci siamo resi conto in maniera evidente, che il costo, no, a volte sembra particolarmente eccessivo, ma ci siamo resi conto che basta veramente poco, e a volte basta solo l'impegno, no, e il desiderio di volerlo fare, per rendersi conto che con veramente poco si può generare parecchio valore in più. Questo valore comunque torna. Nel senso che non è qualcosa che appunto lo facciamo per l'obiettivo di una maggiore redditività, però ne è una conseguenza, e siamo assolutamente convinti che tutto ciò che è stato investito in questo senso, in questa direzione, è tornato molto di più nella resa e nell'ambiente che questa cosa ha generato all'interno dell'azienda. All'attaccamento, sì. Forse all'azienda, sì. Del dipendente. Paolo, ci siamo dimenticati di dire, dai 5 soci ad oggi, quanti lavorano qui a 7 Pixel? Siamo arrivati ad avere circa 110 collaboratori, Tra l'altro sparsi, se vuoi, non solo qui a Giussago, ma c'è un ufficio anche a Varese che è legato all'Università dell'Insubria, con la quale collaboriamo per la ricerca, che ha ormai circa 15 persone. Abbiamo anche un ufficio a Madrid, perché abbiamo una società posseduta al 100% da noi, che è appunto Shoppidoo, l'altro nostro comparatore, con 8 persone. E quindi, insomma, ecco, negli anni... Scusa, in entrambi questi casi mantengono la filosofia che c'è qui a Giussago? Assolutamente sì, anche sia a Madrid che a Varese. Ecco, un'altra delle cose che ci stiamo scordando a dire, banalmente abbiamo i professori di inglese che danno la possibilità appunto ai collaboratori di fare corsi di inglese, ovviamente pagati a 7 pixel. La possibilità di avere appunto il reparto merendine e mensa e quant'altro, sempre a costo aziendale sostanzialmente. Ecco, comunque assolutamente sì, la filosofia che c'è a Giussago c'è anche sia a Madrid che a Varese. Rapporti con il territorio, tutti questi campi da tennis, l'azienda comunque ha un bel parco intorno, così sono, diciamo, accessibili alla popolazione locale o è comunque ancora no, non c'è questo tipo di legame? Attualmente no, semplicemente perché la gestione di questa cosa rischiava di essere più complessa e più di quanto appunto può sembrare. Noi siamo qui adesso a Giussago da un anno circa. L'apertura e la disponibilità, questa cosa c'è, le problematiche che questa cosa potrebbe generare non le abbiamo ancora del tutto risolve con la comunità locale, ma il rapporto con la comunità locale è estremamente positivo, però per due ragioni. La prima è che comunque sia in una realtà dove si costruisce un parecchio verde, costruisce tra virgolette, è verde, quindi bosco permanente, è qualcosa che dà alla realtà locale ambiente, paesaggio e ossigeno. E già questo non è poco. Ma la cosa per cui forse siamo più apprezzati è che siamo percepiti come appunto una realtà che sta portando lavoro. In un ambiente, in un momento come questo, è un bene così prezioso ed è la ragione per cui ci sentiamo molto ben accolti dalla comunità locale e dal comune che ci ospita. È tutto per questa puntata, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, vi ricordo, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.